Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Egregio direttore, qualche giorno fa il Ministero dell'Istruzione ha comunicato i dati sui tagli alle cattedre per l'anno scolastico 2009-2010. Meno 42.000. Chi sono questi 42.000 italiani che perderanno il posto? Sono persone di età generalmente superiore ai 30 anni. Molti di loro hanno superato i 40. Per diventare insegnanti, oltre ad aver conseguito una laurea specialistica, hanno dovuto frequentare per 2 anni una scuola universitaria di specializzazione all'insegnamento. Pochi in Italia sanno che da 10 anni a questa parte, per insegnare non è sufficiente la laurea nella propria disciplina. Occorre anche frequentare un biennio di specializzazione, a numero chiuso, al quale si accede previo concorso pubblico. Alla fine dei corsi bisogna sottoporsi all'esame di Stato che conferisce l'abilitazione. Dopo questo percorso curriculare di 7 anni, inizia il calvario delle supplenze. Si entra in una graduatoria e si aspetta di essere chiamati dall'ufficio scolastico provinciale o dai presidi a tappare i buchi dell'organico. Per fare un esempio, mia moglie quest'anno ha ottenuto una supplenza annuale e insegna in 2 paesi lontani 40 chilometri dalla nostra abitazione, in 3 scuole diverse. La fase di precariato dura anni, perché è da lungo tempo che lo Stato non reintegra in ruolo gli insegnanti andati in pensione, preferendo ricorrere ai precari, più flessibili e meno pagati. Si dirà, sono tempi difficili, in tanti perdono il lavoro. È vero, ma quella degli insegnanti è una categoria speciale. Rappresentano un patrimonio per ogni nazione. Sono infatti gli insegnanti che preparano le future generazioni. Sono loro che portano avanti la cultura e la memoria di un paese nei giovani. Se questi docenti, tutti formati con grandi sacrifici personali e alti costi per la collettività, vengono scaricati, dovranno riciclarsi a fare altro e non saranno più disponibili quando sarà necessario sostituire quelli che inevitabilmente negli anni andranno in pensione. I più penalizzati saranno ovviamente i più giovani, quelli che sono nelle posizioni più basse delle graduatorie. Questo vuol dire che un'intera generazione di professori non ci sarà più. Sarà stata cancellata da questo paese per mere ragioni di bilancio. È possibile che nessuno se ne renda conto. Stiamo minando alla base il futuro dell'Italia. Si è deciso, per ragioni di opportunità politica, di salvare il posto a 15.000 lavoratori dell'Alitalia, con un costo enorme per i contribuenti. Un paese più saggio e meno miope avrebbe pensato prima a tutelare la vera ricchezza di una nazione, il sapere e la conoscenza, e invece ha preferito salvare il tricolore sulla coda di un aeroplano. Francesco. Non passa settimana che non ci sia la notizia di multe inflitte dall'autorità antitrust a banche, assicurazioni, oltre a svariate categorie di impresa, vedi le multe inflitte ai produttori di pasta o ai gestori di telefonia mobile per le suonerie, eccetera. Nessuno dice mai, però, se queste multe vengano mai pagate davvero e per intero, né dove vadano a finire i soldi nel caso vengano pagate. Secondo me, se si scavasse un po' di più, si evidenzierebbe come tali notizie roboanti spesso finiscano nel nulla o quasi, e che quel poco che eventualmente si recupera finisca disperso chissà dove. Come me, milioni di cittadini non hanno mai avuto mezzo euro restituito da banche, assicurazioni, aziende, eccetera. In altre parole, le aziende ci truffano. L'antitrust lavora per recuperare una sua fetta, e a noi resta il contentino dei titoli roboanti dei giornali. Corrado. Il dramma della disperazione si compie ogni giorno anche in Italia. Non è un dramma paragonabile a quello del Darfur o di Mumbai, ma è pur sempre un dramma che ha in comune con i drammi peggiori la perdita di dignità della persona umana in quanto tale. Pochi si pongono il problema, sino a che non perdono la propria, quasi fosse un problema che tocca sempre agli altri. Sempre di più iniziano a capire di non esserne immuni. Io credo che la partecipazione civile, la consapevolezza e l'impegno di ognuno, al di là di ogni appartenenza ideologica, non possano che aiutare a risolvere quello che viene definito, da chi non se ne vuole mai occupare, il problema dei massimi sistemi. Signori, non possiamo racchiuderci nel nostro bozzolo e sotto il nostro campanile a ragionare in piccolo, in modo provincialistico. Ho sempre pensato che chi pensa in piccolo agisce ed ottiene risultati piccoli, anche se dal piccolo si costruisce il grande, guai a rimanerne invischiati e limitati. Così, anche di fronte agli avvenimenti di questi giorni, mi sembra giunto il momento di chiamare alla partecipazione il maggior numero di persone. Ognuno può dare il suo contributo, piccolo, grande, ognuno secondo le sue possibilità. Ma per carità, impegniamoci, capiamo, cerchiamo di capire. Sapere aude. Non è più possibile assistere alla macelleria sociale in silenzio. Tutti ne siamo coinvolti, tutti ne paghiamo le conseguenze. Il sistema economico vuole andare avanti con le stesse regole che ne stanno causando la crisi, non rendendosi conto che il risultato aggregato peggiora indefinitivamente la crisi stessa. Non si può permettere la continua emorragia di posti di lavoro, non si può più permettere l'utilizzo di logiche di produttività invariate, per non parlare delle logiche di budget. Se non vogliamo arrivare alla sospensione della democrazia, dobbiamo sospendere il sistema economico così come lo abbiamo conosciuto fino a ieri e adottare criteri di economia sociale e di mercato come sta avvenendo nei paesi più evoluti del nostro. Lo Stato potrebbe ridurre i contributi dovuti dalle aziende che accettano di stipulare contratti temporanei di solidarietà e potrebbe addirittura, con quanto risparmiato in ammortizzatori sociali, integrare parte delle mancate entrate dei lavoratori. L'uovo di Colombo. Troppo semplice per essere applicato. Allora basta. Non accettiamo più interventi che non vadano nella direzione sopra indicata. Non possiamo più accettare la perdita delle dignità della persona in quanto tale. Oggi e dovunque. Alex. Caro direttore, tutte le mattine seguo questa rubrica e ascolto piccoli imprenditori che parlano dei privilegi che i dipendenti hanno, quali ferie, malattie pagate, e che a loro sostengono sono negati. In particolare, puntano il dito contro i dipendenti statali che tanto hanno e nulla fanno. Poi ascolto i dipendenti che parlano male degli imprenditori. Secondo loro rubano, evadono, sfruttano le categorie più deboli, stranieri, giovani. Sentiamo medici e professionisti che parlano di deontologia. E poi la cronaca ci racconta di tangenti, di richieste di extra, monetarie e sessuali. Sentiamo di medici che, per tangenti, acquistano valvole cardiache di scarsa qualità. Sentiamo di taxisti che dichiarano meno di un co-co-co e possiedono case o barche. Di dentisti indigenti che girano con auto di lusso. Di dipendenti pubblici o privati che fanno i furbi, per non parlare di banchieri furbi. E politici navigati di destra, sinistra e centro. Inutile continuare a lamentarsi che il pesce puzza dalla testa e con questo a scaricare la responsabilità. Cominciamo a smettere di lamentarci e basta. E continuiamo a fare nel modo corretto il nostro lavoro, pretendendo che anche gli altri lo facciano. Cominciamo ad esempio a pretendere gli scontrini e fatturare ogni volta che ci sono dovuti. Solo così lo Stato può investire nel proprio futuro. Penso che il cambiamento debba avvenire dalla testa, quindi dai politici. In particolare, a loro è richiesto che si facciano un bagno di umiltà e ridiano un servizio al paese. Perché in questo momento puzzano di arroganza, ingordigia, immoralità, lussuria e avidità. Fanno di tutto per giustificare il loro modo di fare e nessuno di loro ha volontà di dimettersi, anche di fronte all'evidenza di loro nefandezze, ma si preoccupano solo di spostare il focus da un'altra parte, quasi sempre appoggiati dal resto della classe politica. Direttore, non mi prolungo oltre. Ho poche speranze che lei legga questa lettera, perché troppe persone che lei rappresenta sono qui elencate. Grazie. Spero che lei intuisca l'amarezza in positivo di questa mia lettera. Luigi. Caro Luigi, capisco la sua amarezza. Molto spesso la cronaca, e quindi anche la nostra radio, deve dare notizia di tutte le scorrettezze a cui lei fa cenno. Persone che non fanno il proprio dovere, che sfruttano il lavoro degli altri, che trasformano il bene pubblico in interesse privato. Ma non dimentichiamo che in tutti questi casi quello che fa notizia è l'eccezione. Per un dipendente pubblico assenteista ce ne sono 10.000 che fanno il proprio dovere. Per ogni evasore fiscale ce ne sono 100.000 che pagano regolarmente le tasse. La società italiana è nel suo complesso molto più sana, corretta e solidale di quanto non emerga dai casi di malaffare, comunque presenti e significativi. Lei, caro Luigi, però ha ragione nel sottolineare i doveri della politica. Una politica che deve dare il buon esempio, soprattutto in tempi di difficoltà e di crisi. Le parole, in queste ultime settimane, non sono mancate. I fatti li stiamo ancora aspettando. Thank you. protesta contro il termovalorizzatore, che rappresenta una grande vittoria contro la camorra. Protestano, e fino a ieri erano sommersi dall'immondizia. Raccolta differenziata zero. Vergogna, Enrico. Vorrei solo fare un'osservazione sui cosiddetti partiti del no. Io sono arrivato a una sola conclusione in merito alle proteste indignate. A proposito del termovalorizzatore in Campania, anche se il ragionamento è valido per tutte le latitudini italiche, dalle Alpi alla Sicilia e da Ventimiglia a Trieste, in realtà alla fine si mettono a tacere tutti, soprattutto gli ambientalisti più assatanati. È solo una questione di prezzo. E vedrete che mi darete ragione. Basta seguire ogni caso fino alla fine. Provate a seguire questo o gli altri casi e vi renderete conto che il 99% delle volte non si ottiene mai quello che si chiede nella protesta, ma solo dei soldi per altri scopi. Ippolito. Il piano casa, che dovrebbe rivitalizzare l'economia italiana, non aiuterà più di tanto l'economia reale. Chi non arriva alla fine del mese, chi ha paura di perdere il lavoro, i cassintegrati, i precari e tutta la gente che ha paura di investire i pochi risparmi per l'insicurezza del domani, non allargherà la casa o la villetta. Questa legge aiuterà i ricchi, i grandi immobiliaristi e i grandi costruttori, che potranno ampliare le case in costruzione per ricavare più appartamenti. Così potranno guadagnare ancora di più. Io, un piccolo dipendente di un'impresa artigiana, con una retribuzione di 1.100 euro, non ci penso neanche ad ampliare casa mia, ma penso al mio futuro e a risparmiare il più possibile. Marco. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.